Attenzione 10, c'è qualcuno? Attenzione 10, c'è qualcuno? Attenzione canale 10, se c'è qualcuno, batta un colpo. Attenzione canale. Chi è? Chi è? Avanti. Sì.